Italia in controluce. Seconda edizione di Italia in controluce per quest'oggi 8 luglio. Vi parla come sempre Daniele Biacchessi sulle frequenze di Radio 24. Accade a Bologna, ma accade anche in altri luoghi d'Italia. Bologna, dopo la bocciatura dei garanti di Palazzo D'Accursi al referendum sui fondi alle materne private in maggioranza cattoliche, il Comune ha stanziato 25.000 euro per le attività di estate ragazzi, centri estivi parrocchiali. La motivazione è che quelle attività sono servizio pubblico. Va avanti la polemica a Bologna a questo tema, non solo alla vicenda ambientata a Bologna, dedicata alla puntata odierna di Scuola in Controluce di Piera Ceci. Scuola in Controluce. Scuola ed oratori, o meglio dopo scuola e oratori. Sono infatti sempre di più le parrocchie che si organizzano per aiutare gli studenti nei compiti a casa e nel recupero su alcune materie in cui mostrano difficoltà. Un fenomeno radicato in alcune regioni, relativamente nuovo invece in altre. Uno strumento spesso unico per gli immigrati o i ragazzi con problemi familiari per stare al passo con i compagni di classe più bravi. Oggi di questo parliamo in Scuola in Controluce e lo facciamo grazie alle interviste di Romolo Napolitano. Cominciamo con Don Marco Mori, presidente del Forum degli Oratori. Diciamo che gli oratori in Italia sono circa 6.000. L'esperienza ci dice che nelle zone dove gli oratori sono organizzati, perché ce ne sono tanti, perché c'è una rete, di fatto più della metà degli oratori di quel territorio ospitano un servizio di doposcuola. Faccio un esempio, la metà degli oratori milanesi ospitano un doposcuola. A Brescia più della metà degli oratori ospitano un servizio di doposcuola. Qual è la loro distribuzione geografica? Abbastanza omogenea? Gli oratori si concentrano molti al nord perché una buona metà degli oratori italiani sono praticamente concentrati tra la Lombardia, il Piemonte e il Veneto. Nel sud c'è una distribuzione numerica molto più piccola. Diciamo che negli ultimi anni anche la zona del sud sta molto scoprendo il tema dell'oratorio. Ce la fate con gli oratori a soddisfare tutta la domanda, tutte le richieste che vi vengono poste? Per onestà intellettuale devo dire di no, nel senso che le richieste sono tante. La cosa interessante secondo me è che l'oratorio offre più possibilità. Dall'altra parte ci sono questi nuovi bisogni che stanno incalzando, a cui non sempre riusciamo a rispondere. L'altro tema interessante, se vuole, su questo aspetto è l'accoglienza degli stranieri, ad esempio. Cioè, nei servizi del doposcuola noi vediamo che tante famiglie straniere vedono nell'oratorio la possibilità di dare ai loro bambini la possibilità di integrarsi meglio. Questo è un servizio grande, invisibile, che molte volte però l'oratorio fa, perché crea una maggiore, come dire, integrazione oltre la scuola. Quello che voi fate da volontari non dovrebbe farlo lo Stato, non dovrebbero farlo le istituzioni? Io penso che l'uno e l'altro non si escluda. C'è una vocazione all'educazione di tutte le comunità, è un diritto all'educare che è di tutti. Quindi io sono per un sistema educativo che sia di tutti, quindi dove c'è più Stato ci può essere anche più capacità educativa anche delle singole comunità. E non è che siccome lo Stato viene a mancare allora deve aumentare quello che è il tasso educativo delle singole comunità. No, bisogna lavorare insieme. Secondo me l'educazione è un tema talmente grande, talmente, come dire, importante, che c'è spazio per tutti. C'è un tema grosso oggi sull'educativo, che è quello anche dell'economicità del sistema educativo. Cioè è vero che oggi siamo in un tempo di tagli anche ad alcuni servizi. Io non entro in merito alla questione, come dire, dell'opportunità o dell'impossibilità più o meno a fare questi tagli, perché non è il mio compito. Però io penso che è importante ingegnarsi all'interno della comunità, perché là dove vengono in qualche modo tagliati alcuni servizi per necessità o perché non si può fare altro, non sia l'economicità, il costo, l'unica discriminante per avere o non avere un servizio. La cosa interessante che gli oratori secondo me possono condividere anche col sistema scolastico è che a volte basta organizzarsi anche un po' meglio per contenere anche i costi e comunque continuare ad offrire un servizio. La Lombardia, abbiamo sentito, è una delle prime regioni i cui oratori hanno cominciato a fare dopo scuola. Qui la percentuale di immigrati è molto alta e spesso, oltre ai compiti, l'oratorio serve come vero e proprio incubatore di integrazione. Matteo Zappa, responsabile area minori della Caritas Ambrosiana. Dalla mappatura che abbiamo fatto nel 2010 abbiamo confermato una tendenza importante, cioè la presenza di ragazzi stranieri molto alta, diciamo in generale sul 40%. 30-40%, ma soprattutto nel Milano città, nella zona del Lecchese, è proprio una maggioranza di ragazzi stranieri, quindi diventa proprio un luogo importante di relazione, di integrazione, insomma. Mediamente quanti giorni a settimana voi operate e quanti volontari avete a disposizione? Milano, facendo un po' un calcolo, sono più di 4.000 i volontari che danno una mano all'interno di dopo scuola. Sull'apertura è molto varia, perché effettivamente abbiamo delle strutture che aprono magari due pomeriggi a settimana e alcuni invece che sono aperti tutti i giorni. Avete accordi con le scuole? In alcuni casi, e nascono anche proprio dalla collaborazione tra le Caritas e le scuole. Poi nel tempo si sono anche formalizzati dei protocolli, cioè un accordo che permette appunto di seguire dei programmi condivisi, insomma, che permette effettivamente alla fine di avere una collaborazione sui percorsi educativi che si fanno nei confronti dei ragazzi. Quali sono i risultati fino adesso? Avete fatto un primo bilancio, no? Dal punto di vista educativo i risultati sono molto importanti, perché appunto sono degli spazi in cui hanno dei volontari a disposizione, degli adulti che danno loro attenzione, ragazzi che magari a casa non hanno o una famiglia che per problemi di lavoro e di orari potrebbe seguire, o che hanno proprio anche delle difficoltà e quindi vengono sostenuti anche a livello educativo. Dal punto di vista didattico, effettivamente dove si fanno dei protocolli, si seguono dei programmi ad hoc, questo permette anche di raggiungere dei risultati, di recuperare delle materie, per esempio sulla lingua italiana per i ragazzi stranieri è uno spazio molto importante. Ricevete fondi dalle istituzioni? Ma allora, diciamo che questo è molto vario, cioè quei dopo scuola che hanno delle figure professionali, cioè coordinatori educatori, cercano fondi. Purtroppo i fondi in termini di progetti di questo tipo, a livello di prevenzione, di sostegno, non sono molti e sempre di più stanno diminuendo. Ce n'è una nazionale che è la 285, una regionale per la famiglia in Regione Lombardia che è la legge 23, che a volte sostengono, però sono finanziamenti che durano poco, quindi molto spesso sono le parrocchie stesse che, laddove appunto si decide di inserire una figura professionale, cercano di sostenere, ma come puoi immaginare poi economicamente è difficile per una parrocchia, quindi sarebbe importante che ci fossero anche dei fondi che stabilmente possano sostenere questi tipi di interventi. Da qualche anno l'esperienza di dopo scuola negli oratori sta prendendo piede anche al sud. Ovviamente il contesto e i problemi che incontrano sono diversi da quelli del nord. Don Dario Mostaccio è referente per gli oratori siciliani ed è responsabile di un dopo scuola a Messina. I giorni sono quasi tutti, escludendo il sabato e la domenica, chiaramente, quindi tutti gli altri giorni incontriamo i ragazzi nel pomeriggio. La media è circa 4 volontari, per un numero di circa 20-25 bambini che chiedono di fare il dopo scuola, e sottolineo il dopo scuola lì all'oratorio è aperto in modo particolare a chi non può permettersi magari qualcosa di diverso, perché chiaramente facciamo la differenza tra alcune famiglie che hanno magari un bisogno maggiore rispetto ad altri. Come accolgono le scuole il vostro servizio? C'è una collaborazione diretta? Per alcuni casi sicuramente sì, in alcuni casi particolari c'è stato il dialogo tra le insegnanti del mattino e chiaramente i volontari del pomeriggio. In qualche caso particolare io stesso ho portato le volontarie al mattino a scuola proprio per dialogare con le insegnanti e cercare delle strade comuni da percorrere. Quali sono i problemi che incontrate maggiormente, anche rifacendovi comunque a condizioni magari familiari economicamente disagiate? Forse proprio questa è una delle difficoltà, al di là del fatto che i bambini vengono con tranquillità all'oratorio anche per il dopo scuola, e forse la situazione familiare è poco rosea, dico anche dal punto di vista sociale non sono inseriti pienamente nel contesto e quindi questo non aiuta molto, ecco, i genitori potrebbe correre il rischio che lasciano i bambini lì e quasi diventa un parcheggio pomeridiano. Al nord in genere c'è un'alta percentuale di immigrati tra i bambini. Magari la percentuale è molto più bassa, ma qualche presenza c'è anche qui da noi e facilmente si integrano. La vostra è un'esperienza relativamente giovane al sud. L'esperienza sì, è giovane, l'abbiamo inaugurato circa 4 anni fa e sicuramente è già diventato un punto di riferimento. I risultati ci sono, chiaramente c'è ancora molto da lavorare. Voi avete ricevuto fondi dalle istituzioni, aiuti? Per dopo scuola sicuramente no. Come ben sa, c'è una legge nazionale sugli oratori, purtroppo ancora a livello regionale non è stata recepita e quindi questo non ci facilita molto la cosa rispetto alle regioni del nord, che invece hanno chiaramente recepito la legge e attraverso dei progetti c'è la possibilità di formulare dei progetti affinché possano essere poi approvati e ricevere quegli aiuti di cui lei parlava. per portare avanti delle iniziative, gli stessi progetti. Italia in controluce, la seconda edizione, torniamo lunedì 11 luglio 6:30, Radio 24.